domenica mattina, una brezza malinconica soffiava dal mare. Il pensiero di odissee lontane, viaggiatori in cerca di emozioni forti a cui approdare. Sopravvivere al tumulto delle tue parole, a sud-est, ai margini del buio incede il sole, ed aspetterò la sera agghindata di brillanti berresti a guardare le stelle. Spiegami in fondo che senso ha aspettare l'estate per poi rimpiangere il freddo dell'inverno, dove il cielo è più terso, il sapore dell'inverno. Quella domenica mattina accettavo senza accorgermi un invito al dolore. Un tripudio di onde anomale agitava l'orizzonte. Non avevo che me stessa e una ridente imbarcazione. Sopravviverò al tumulto delle tue parole. Sopravviverò. Spiegami in fondo che senso ha aspettare l'estate per poi rimpiangere il freddo dell'inverno e gli odori che non risvegliano i sensi e le anguste giornate sempre brevi. Che senso ha ostinarsi a reprimere un desiderio e lasciarlo alla porta, fingendo l'assenza ed ancora una volta non so per dire basta. Accettavo senza accorgermi un invito al dolore. We'll be right back. the truth of my dad. I'm running so far out of my head. With a strain of heart that ripples my day. See rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. I'm not afraid to die. denaro solo è perché voglio essere libero. Penso che queste catene sono da sciogliere. Lasciami andare, non c'è niente che possa fermare il sole al tramonto. La realtà spegne anche l'ultimo raggio di luce possibile. Passiamo la notte da svegli a parlare, parlare, parlare. Man mano che aumentano i gradi di separazione, capisco che l'uomo che hai in mente non sono io. Lasciami andare, con il tempo dimenticherai, avrai altro da fare. Credimi, ma dirti queste parole per me non è facile. La vita non ammette che si possa essere sinceri fino in fondo, senza che si lasci una ferita nel profondo. Parlare, parlare, parlare. Man mano che aumentano i gradi di separazione, capisco che l'uomo che hai in mente non sono io. Lasciami andare, per un poco mi porterò addosso la tua tristezza. Resta la mia solitudine e la tua tenerezza. Resta la mia solitudine e la tua tenerezza. mistake again. Don't let me make the same mistake again. Neanche tanto squilibrato. Da tras, a una parte, nata esce, mezzo mare e poto cresce, a schiumazzero passato. Guarda qui, han già pulito, puoi passarci lingua e dito, che la polvere non c'è. Chimica d'oltranza, mi rinchiudo in una stanza, busti in mano un coppa panza. Maramao, sei vivo o morto, la monnezza t'ha sepolto, l'insalata c'era anche lì nel porto. Maramao, perché ti han storto, ti han storto, ti han storto. Ogni angolo rifiuto, questo odore lascia muto, ma mi asciuto non star nudo. Solo, solo il tempo d'un saluto, Iva neve già fuiuto, e da solo sto un cacca. Guarda, qui c'è pure un dito, l'han spalmato, l'han condito, ed è finito dentro un toast. Sta mezzo e lanzola, una terrazza mezzo sola, guardare il mare blu. Abbiamo perso una mutanda, l'ho trovata in mezzo al mare, così ho smesso di nuotare. Ma son mise pure scuorna, ma so guardata attorno, me la son rimessa su. Né governi o terremoti, né ministri né borboni, pensa si ci fanno sti coglioni ad ammazzare sta città. Maramao, sei vivo o morto, l'insalata che c'era nel porto l'hai mangiata pure tu. Maramao, sei diventato blu. L'alba inizia un nuovo giorno, esce sole e mi addormo indolente insieme a te. Mi alzo, prendo in mano la chitarra, esco fuori, guardo cielo e mi sento ancora un re. Covering undercover over lover, recovering from a love I can't get over, recovering undercover over lover, and now my common law lover thinks he wants another. Scratch for you, leave out the lash for you, go to the stove for you, do it some more for you, do what you want me to, guess I'm a fool for you. I'm a recovering undercover over lover, recovering from a love I can't get over. Covering undercover over lover, and now my common law lover thinks he wants another, and I'd lie for you and cry for you and pop for you and break for you and hate for you, and I'll hang you too. Painting red for you, it's true, it's true. Poor Badu, thought I was through with you, guess I'm a fool for you. Love from high, new frontier. kisses through the door, starring in her episode. Way to pass it when it comes. Pass the joint on the left hand side. Don't ever pass it on the right. Never rash it on my knife. If you sprinkle hash in it, just don't let it out your sight. Cause if you take it out the sight, but you're just begging for a fight, aight? Give me your lighter so I can get the cipher ignited. Puff, puff, pass, homie, don't you dare try to hide it. I smoke a cone or a flip and I blip my spirit. Then I take a bong hit, hit it fucking hard and clear it. Hit it with the left hand, pass it to the next man. Still the food of bless and the sweetest from the west, fam. You'll never get it on your right and you can bet it on your life. It's 420 every night, who wanna get high? Do you want to get high? Pass the joint on the left hand side, only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side, only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side, only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. Put it in the air if you wanna get high. I'm green evidence. On the podium stands the minister. I see weed through cypress trees. I just finished up. I'm center stage high. Civic center stage dive. Even summer, winter, spring, and fall ain't the same. My head's in the cloud of smoke when I choke the lie. Been toke on the left hand side. No joke, work to touch these Los Angeles souls. He twists herbs up. The words are dangerous. Roll. Only on the left hand. When I smoke, I'm tilted to the side like a kickstand. Roll up a rocket, call me the missile man. I'm sinking the rhythm like it was quicksand. One, clear out your nasal passage. More than medicine from Tristan. Voila, my mind at ease. The police man wanna come and find my trees. Hashish from Morocco make my eyes Chinese. Tearing up the studio just trying to find my keys. Just like that, y'all. Only on the left hand side. Only on the left hand side. The joint on the left hand side, only on the left hand side. The joint on the left hand side, only on the left hand side. The joint on the left hand side. Just put it in the air if you wanna get high. Do you want to get high?